I dottori scuotevano gravemente le teste davanti a quel letticciolo scomposto in cui il piccino si dibatteva in un'inquietudine senza tregua, gridando: «C'è un treno che mi corre sulla testa, mamma! Portatelo via, mi fa male, mi fa male!» E vedendogli la gola di un rossore quasi violetto, mormoravano: «Difterite, scarlattina!» Poi se ne andavano, chiacchierando insieme sommessamente, lasciandomi pazza di dolore e di spavento. Camaroschi vegliava con me notte e giorno, ma talvolta si addormentava e io, vedendolo dormire, lo odiavo. Prilukov aveva lasciato l'Hotel Victoria e aveva preso anche lui una camera al Bristol per essere vicino a noi. Talvolta per un istante lo vedevo, lugubre e abbattuto, ma quasi non ci parlavamo, io non avevo né cuore né pensiero per altri che per Tioca. Una notte, era la quarta della sua malattia, il piccino, che si era assopito per pochi istanti, si ridestò tossendo e soffocando. «Mamma, mamma!» ansò, fissandomi in volto i larghi occhi spaventati. «Perché? Perché mi lasci morire?» Poi richiuse gli occhi. Io rimasi come fulminata. Sì, ero io che lo lasciavo morire. Lo avevo già pensato, ma non avevo formulato in me l'atroce pensiero. Subito, appena si era ammalato, io mi ero detta: «Questa è la nemesi!» Avevo giurato su Tioca, giurato su Tioca! E mi tornava alla mente la serata della Lustig Witwe e Prilukov che, additando la serafica testolina del bimbo, mormorava: «Se indietreggi, sarà lui che pagherà!» Sì, Tioca pagava. Pagava l'iniquo giuramento tratto di forza dalle tremanti mie labbra, quando quella notte in Orel i tre uomini mi incalzavano nell'ombra. Con la rivoltella premuta sulla tempia, Prilukov mi aveva detto: «Giura!» Oh, avrei dovuto lasciar compiere il fato, lasciar scattare il grilletto, egli sarebbe piombato ai miei piedi. Naumov sarebbe accorso, Kamarovsky avrebbe sfondato le porte, tutto sarebbe stato svelato, il triplice inganno, la frode, il disonore, ma io sarei stata libera, libera di andarmene col mio bambino per le vaste vie del mondo. Ma no, no, vile, mille volte vile, stretta alla gola dalla paura e dall'onta, davanti a quella minaccia di ignominia e di morte avevo giurato. E adesso era Tioca che pagava. Allora la belva materna si risvegliò in me, già indebolita dalla malattia e dalle veglie, il mio spirito si smarrì nel cieco labirinto della superstizione. I miei sguardi frenetici andavano da Tioca, sparuto e piccolo sui guanciali come un uccelletto ansante vicino a spirare, a Kamarowski allungato sulla poltrona con le mani flaccide abbandonate lungo i fianchi, gli angoli della bocca abbassati nel sonno, i baffi ispidi, il mento pesante. Io lo guardai con occhi nuovi, quest'uomo per salvare la vita del quale io sacrificavo mio figlio. Sì, Tioca agonizzava perché andasse avanti a vivere questo estraneo, questo intruso, questo nemico. Quando rivolsi lo sguardo a Tioca, vidi che aveva gli occhi aperti e allora caddi in ginocchio accanto a lui e gli parlai all'orecchio, follemente, rapidamente: «Non ti lascerò morire, no, no, no, non ti lascerò morire, anima mia, idolo mio, ti salverò, guarirai, tornerai fuori a correre nel sole, a giocare. No, no, no, la tua mamma non ti lascerà morire, morirà l'altro, sì, morirà l'altro, ma tu no, tu no, tu no, vedrai che adesso guarirai subito, stai già meglio, non è vero, stai meglio!» E mio figlio, cullato dal sommesso sussurro, sorridendo pallidamente, si addormentò. Quest'idea divenne fissazione, frenesia, delirio. Non pensavo ad altro, non sognavo altro. Tioca aveva la scarlattina e le fluttuazioni della malattia mi parevano dipendere unicamente da me. Quando io decidevo fermamente, irrevocabilmente, la strage del Kamarowski, mi sembrava che la febbre del bambino diminuisse. La sua gola si disinfiammava, i dolori del suo biondo capo si calmavano. Ma se allora io, più calma, riattaccandomi alla speranza, esitavo nei miei propositi omicidi, ecco che la febbre lo riafferrava, ecco che il treno correva a ristritolargli le tempie, ecco che la tenera gola si gonfiava a strozzarlo, a soffocarlo. Prilukov seguiva con stanca rassegnazione le fluttuazioni del mio spirito malato. Pareva divenuto un cencio anche lui, fiacco, senza pensiero né volontà. Quando io insistevo, maniaca e ossessionata, sulla necessità del delitto, egli diceva languidamente: ma no, lascia stare. Allora io smaniavo di più, gridavo, singhiozzavo, mi strappavo i capelli. Ma non capisci che Tioca muore? Tioca, il piccolo Tioca muore e siamo noi, noi che lo uccidiamo. Ma no, sospirava Prilukov. Lascia stare. E Tioca peggiorava. Un giorno in cui non mi vide più, non mi udì più, non si mosse più, io mi alzai come un'allucinata, muta e lenta, lasciai il suo letto e andai nella camera di Prilukov. Egli fumava sdraiato sulla poltrona, annoiato e inerte. Gli afferrai il braccio: Donato Prilukov, io rinnovo il giuramento. Paolo Kamarowski entro quest'anno morirà. Va bene, gridò Prilukov, stanco e snervato dai miei eterni mutamenti d'idea. Accoppiamolo una buona volta e che la sia finita. Quando? Quando? Come? Dove? Ansai io, posseduta da un demone di malefica pazzia. E lo ucciderai tu? Prilukov alzò su di me i lunghi occhi languidi. Come vuoi, disse, e soggiunse con voce spenta: io sono molto stanco. E fui io a spingerlo, a urgere, ad affrettare, a premeditare, a tracciare i piani. Egli lasciava fare, languido e depresso. Talvolta mi contemplava quasi stupito. Terribile donna tu sei. Ma io pensavo a Tioca e raddoppiavo di fretta e di furia omicida. E Tioca migliorò. Venne il giorno in cui lo portai nelle mie braccia dal letto a una poltrona accanto alla finestra. Come fu dolce quel tragitto. Egli teneva le braccia intorno al mio collo e la testa abbandonata sulla mia spalla. Io camminavo lenta, lenta, a passi piccoli per non deporlo tanto presto. Parmi di avere tra le braccia un fiore. Il dolce verso italiano mi tornò leggero e fragrante nella memoria. Fu Prilukov che un giorno mi rammentò con sorriso cinico che il giuramento includeva anche Nicola Naumov. Nicola Naumov? Io l'avevo quasi dimenticato. Allibì, anch'egli, quell'estraneo, lontano, scordato, doveva morire. Non so a quale di noi due venne il pensiero di servircene come strumento, di distruggerlo facendone un sicario, di assassinarlo rendendolo assassino. Probabilmente fui io a pensarlo. Oh, temevo di non poter contare su Prilukov, languido, indifferente, neghittoso. Oh, sì, certo, fui io che pensai in questo modo di placare i fati e di sviare la imminente nemesi. Buona idea, disse Prilukov, stanco e distratto. Lasceremo che faccia Naumov. E accese una sigaretta. Sì, lasceremo che faccia Naumov, dissi io. E vi fu una lunga pausa. Indi, fremente di superstizione, la belva materna in me ebbe questa domanda atroce: credi che basterà? Prilukov mi guardò, poi sogghignò con la bocca storta: sì, credo che basterà. 38. A che pro riandare la terribile storia che tutti sanno? Rituffarmi fino alla gola nel sangue e nel fango di quell'epoca orrenda, raccontare i telegrammi teneri e insidiosi mandati a Naumov, a quell'appassionato e ingenuo amatore lontano, la gioia, la gratitudine con la quale gli accorse a me, indi il lento, subdolo avvelenamento del suo spirito contro Kamarowski, l'instillare perfido e sottile dell'odio per quell'amico benevolo e ignaro. E le menzogne, le calunnie, le false confidenze di fantastici oltraggi da me patiti, di ingiurie e di insulti rivoltimi da quel gentiluomo corretto e cortese. Naumov credette tutto, fremette di tutto, subito volle sfidarlo a duello, battersi a morte con colui che era stato il suo migliore amico. Ma non era questo. Non era questo che io volevo. Tioca guarì. Più alto, più magro, più bianco, tornò fuori nel sole appoggiato al mio braccio, estasiandosi di tutto, salutando ogni raggio, ogni cosa fiorita e alata come una conoscenza nuova. Non per un istante permisi più alla mia anima di tergiversare. Iddio, il terribile Iddio della mia fantasia malata, aveva accettato il contratto e ora a me il mantenerlo. Appena Tioca fu in grado di viaggiare senza pericolo, lo mandai in Russia, in casa di parenti, mentre io pagavo il debito per la sua vita. Egli doveva essere lontano. E allora, incominciò il gioco macabro. La commedia sinistra, con quelle tre inconsce marionette di cui tenevo nelle mie gracili mani i fili. Dovevo sopire, calmare, disarmare Kamarowski. Dovevo tenere desta e accesa la furia omicida di Prilukov e soprattutto dovevo incatenare, infatuare, soggiogare Naumov per spingerlo al delitto. Ah, tutte le arti che Lilith, figlia d'Eva e del serpente, ha dato in eredità alla donna. Tutte le sottili perversità, tutte le astute lusinghe, le ricercate raffinatezze, tutte le mise in gioco per ammaliare e sedurre quell'ingenuo sognatore. Lo ubriacai di sensazioni nuove e perverse, come di una nube fragrante e vertiginosa. Lo avvolsi nel turbine dei miei capelli biondi. Fui la Circe moderna, malefica, astuta, piena di bizzarre anomalie, eccentrica, inaspettata. Mi dilettavo a farlo gioire e soffrire in mille modi, innaturali e strazianti. Gli incidevo con un pugnaletto a lama triangolare le mie iniziali sul braccio, gli premevo sulla mano la mia sigaretta accesa. Assumevo le pose assurde, perverse e puerili con le quali le amanti di ogni epoca hanno circuito l'uomo, che in fondo rimane sempre un essere semplice e ingenuo. Nicola Naumov era stordito e conquiso da queste stranezze isteriche ricercate e si credeva l'eroe di una favolosa passione, si figurava d'essere l'amante incomparabile di una portentosa e temeraria amatrice. Talvolta io stessa mi lasciavo prendere al gioco inventato da me. Perdevo di vista lo scopo macabro di quest'opera di seduzione, godevo delle mie civetterie e ardevo io stessa nelle fiamme che deliberatamente avevo accese. Una sera che egli, a ginocchi davanti a me, stringeva sulla sua fronte ardente le mie mani fresche, mi chinai su di lui sorridendo. «Perché ti piaccio tanto?» domandai. «Dimmi, dimmi la verità!» Egli mi rispose serio, con la voce bassa, enumerando le ragioni sulle mie dita tenute fra le sue. «Ti amo perché sei perfida e pericolosa, perché ho paura di te, perché Bozevski è morto per te, perché Kamarowski è pazzo di te, perché tutti parlano male di te, perché hai quella faccia bianca e sottile e la bocca terribile, gli occhi lunghi e crudeli. Ti amo perché sei diversa da tutte, peggiore di tutte, più intelligente di tutte, più appassionata di tutte». Tacque per un istante, ed anche perché tu hai voluto che ti amassi. Sì, ho voluto che mi amassi, e gli accarezzai i capelli, ma, mio diletto, se tutto ciò non fosse vero, se io non fossi diversa dalle altre, né peggiore delle altre, né perfida, né terribile, né crudele, se io ti amassi semplicemente e perdutamente, senza farti soffrire, se io non fossi che una povera donna buona e affettuosa, tu mi ameresti ancora? Non lo so, disse egli, ma tu non sei buona, tu sei iniqua, pervertita, fatale. E così come tu sei, io ti amo. Sospirai lasciandomi baciare le mani. Avrei voluto che mi si amasse perché ero buona. Ho sempre avuto tanta voglia di essere buona, com'è grave a lungo andare la parte della donna fatale, dell'iniqua, della pervertita. Io certo non ero destinata ad essere nulla di tutto ciò. Ho udito dei nuovi orrori sul tuo conto, disse Naumov a un tratto. Ah, feci io. Egli si chinò molto vicino a me. Oh, Bray, mi disse, stringendomi un braccio ferocemente. Di la verità, confessa, è vero? Non ancora, dissi io, che non avevo la più lontana idea di chi o che cosa fosse Obrey. Egli rabbrividì. Vedendolo così selvaggio e addolorato, io mi sentivo molto lieta e sicura di me e non mi ricordavo perché lo avevo voluto innamorare. Pensavo a cose frivole ed estetiche. Mi veniva in mente di scrivere una poesia. L'avrei intitolata L'adorata e avrebbe cominciato così: Io sono l'adorata. Io seggo ritta sovra un trono di sangue, sole ed oro. Ho un biondo amante sulla mia diritta. Ho un bruno amante dalla parte del cuor. Io sono L'adorata. Ero incerta riguardo al penultimo verso, che mi pareva avesse un piede in più. Mi vedevo anche come la figura centrale di un quadro intitolato Donna. Una donna, io, drappeggiata, grave, seduta sopra un alto scanno, i capelli divisi in mezzo alla fronte, gli occhi fermi e quieti, tiene un piede sul petto di un giovane, esanime, ignudo, steso a terra davanti a lei. La donna, la distruggitrice, la fatale, questa immaginazione Mi parve assai artistica e decorativa. Avrei voluto che anche Nicola Naumoff mi pensasse così. E scordai che volevo fare di lui null'altro che una vittima docile e feroce, un'arma obbediente e omicida. Pur vedendomi ogni giorno egli mi scriveva. Elisa mi portava le lettere con aria spaurita e colpevole quando era certa che Prilukov e Kamarovsky erano lontani. Un mattino, che io leggevo, seduta accanto alla finestra, quattro pagine di quella sua scrittura fitta e nervosa, Kamarowski, senza bussare, aprì la mia porta. «Si può entrare?» disse ed entrò. Era vano tentare di nascondere il foglio. Egli venne affettuosamente ad appoggiarsi sullo schienale della mia sedia e disse: «Che cosa leggi?» Io non mi mossi. La lettera diceva: «Come eravate bella ieri, Maria!» Pareva che tutte le primavere avessero diffuso su di voi le loro rosate chiarezze. Io vi adoro, vi adoro. Rinuncerei per sempre a tutti i baci di tutte le donne per mordervi quella bocca sensitiva ed arguta, la bocca che ride così bene e così bene parla». Kamarowski mi strappò di mano la lettera. «Chi è?» chiese, cercando di dominare la sua ira. Io non risposi. Egli continuò a leggere. «Ah, se Paolo non fosse quello che è, quanto mi sentirei vile dinanzi a lui. Ogni volta che penso a quell'uomo sento le fiamme salirmi al viso ed ho per lui insieme odio e rispetto, rancore e pietà». 39. Kamarowski strinse nel suo pugno la lettera e la gettò per terra. «Naumov!» esclamò, e la sua voce era quasi un singhiozzo. «Naumov! Il mio migliore amico!» Camminò a grandi passi in su e in giù per la stanza, poi si fermò davanti a me. «Tu l'ami?» Io crollai il capo. «Ma l'hai incoraggiato?» Io sospirai. «Pensa ciò che vuoi», risposi, scaltra ed evasiva come tutte le donne di fronte al pericolo della scoperta. «Pensa ciò che vuoi, di ciò che vuoi, fa ciò che vuoi». Il mio atteggiamento calmo e altero lo impressionò più di qualsiasi protesta. «Ora, perdonami, è colpa mia, non avrei dovuto lasciarlo venire per casa. Che il diavolo mi porti, avrei dovuto accorgermene. Era sempre tra i piedi come il gatto domestico». E Kamarowski riprese a camminare in su e in giù. «Partiremo, partiremo subito, andremo a Venezia. Già ci pensavo, Venezia, Venezia. Sarà quella l'ultima nostra stazione d'attesa. Dopo?» E mi prese il volto tra le due mani come in una coppa e lo rialzò. «Dopo saprò io difendere mia moglie. Dopo, se qualcuno osa avvicinarsi, guai!» La breve parola gli uscì dalla gola come un colpo di pistola. Ci preparammo alla partenza. Naumov si disperò puerilmente e rumorosamente. Io lo implorai di rassegnarsi, di sperare, di attendere. Giurai che sarei tornata e che lo avrei riveduto. E partimmo per Venezia. Andammo al Lido. Tutta Venezia mi conobbe. Tutti gli uomini ammirarono la mia grazia indolente, la mia slava malinconia. Tutte le donne commentarono, disapprovando, le mie lunghe vesti ondulanti, i grandi cappelli piumati che mi ombreggiavano la fronte e l'assiduità del mio patrizio innamorato. Ed io passavo le mie giornate, le mie notti, a dire: «Mio Dio, datemi la forza di divenire assassina. Iddio che guidaste la mano Giuditta, date all'anima mia violenza e ferocia». Ah, folle, traviata, sciagurata che io ero, e gli uomini mi ammiravano e le donne avevano invidia di me. Prilukov si era dapprima fermato a Verona, poi ci aveva raggiunti a Venezia. Ci seguiva per le strade, corroso di tristezza e di gelosia. Con lui mi trovavo sola ogni tanto e allora parlavamo a voce bassa, rapidamente, come due allucinati del delitto. Se io vacillavo era lui che inesorabilmente mi rammentava mio figlio e il mio giuramento. Se egli esitava, ero io che lo spingevo alla strage. Una sera, ah, ben ricordo quel radioso tramonto estivo, e la laguna era una fluida lastra di rame. Egli mi incontrò sul Lido, era tetro ed accigliato, si tolse di tasca un raggrinzito pacco nero. Era la vecchia borsetta di Elisa. Era l'elefante bianco, squarciato, vuoto, estinto. Con gesto violento egli lo lanciò nell'acqua e in quel punto la lastra di rame si ruppe in mille sprazzi d'oro. «Finiti?» chiesi a bassa voce. «Finiti», disse lui. «E allora come farai?» Egli scrollò le spalle, poi ebbe l'idea, l'idea obbrobriosa, l'idea nefanda. «Senti, poiché tanto quello là e indicò con un gesto della spalla l'assente Kamarowski, poiché tanto quello là è condannato, vero che è condannato? Io dissi quasi senza voce, sì, ebbene, tanto vale che la sua scomparsa serva a qualche cosa, non ti pare? E poiché io inorridita gli fissavo in volto gli occhi spaventati, continuò: Oh, non facciamo i poeti, via via, non facciamo gli assassini romantici. A poco egli convinse il mio debole cervello che avevamo non il diritto, ma il dovere di compiere quell'enormità. A sentir lui non era una cosa ignominiosa e turpe, no? Era quasi un dovere. Era una cosa giusta, ragionevole, logica. Capirai che non è come se si facesse sparire un uomo apposta per averne i denari. Ah, no? Vile cosa, ma invece, dovendo egli sparire, facciamo sì che la sua morte sia di vantaggio a qualcuno, non a noi, bada, non a noi. I denari che gli ti lascerà serviranno a uno scopo giusto, a riparare un errore. Faremo opera di restituzione, ripagherò tutto fino all'ultimo centesimo ciò che ho preso ai miei clienti, e quello che rimarrà in più lo daremo in carità ai poveri, va bene? Non terremo nulla per noi, nulla. Sei d'accordo? E andava avanti a rammentare che tra i suoi clienti v'era una vedova con quattro figli piccoli. Assai lo aveva sempre turbato il ricordo di quella donna. In lui si ridestò l'avvocato, eloquente, persuasivo. Finì col dirmi che avremmo fatto un'opera santa. Ed io, dapprima indignata, poi incerta, poi riluttante, finii col convincermene. E ripetevo dietro a lui: Sarà un'opera santa, sarà un'opera santa. Ah, se esistono i demoni del male, devono pure essersi smascellati dalle risa nell'udire i nostri discorsi in quella fulgida ora vespertina. Fu Prilukov che escogitò i mezzi e stabilì i piani. Tu devi fargli fare un'assicurazione sulla vita. Ma come faccio? Chiedevo io fievole e piangente. Come si fa a dirgli una cosa simile? Penso io, disse Prilukov, che pareva tornato quello di Mosca. E l'indomani mi fece vedere una lettera in una calligrafia contraffatta. Questa lettera l'aprirai davanti a lui e quando lui insisterà per vederla gliela mostrerai. A malincuore. E se non insiste, devi farlo insistere, ribatté Prilukov. Kamarowski, quando venne portata la lettera, vedendomi arrossire e impallidire, insistette per vederla ed io gliela mostrai a malincuore. Era una lettera firmata Trubetskoi. E il giovane principe, che appena conoscevo di vista e che da 6 anni non avevo incontrato più, mi supplicava di sposarlo e come prova d'amore gli si proponeva di far testamento in mio favore e di assicurarsi inoltre la vita per 500.000 lire. Paolo Kamarowski rimase stupefatto. Ma tutti, tutti vogliono dunque rubarti a me? Esclamò e pianse abbandonato sul divano con la testa tra le mani. Io lo guardavo sentendomi morire di rimorso e di vergogna. Egli mi trasse a sé, adorata, adorata mia, non dar retta a nessuno, nessuno, sia principe o mujik, ti amerà più di me. Nessuno farà per te più di ciò che non sia pronto a fare anch'io. Anch'io farò testamento in tuo favore, anch'io mi assicurerò la vita per 500.000 lire. Ma no, mormoravo io annichilita. Ma sì, ma domani, ma subito. E fu fatto così. Vedi, disse Prilukov, che non sono ancora completamente incretinito? E tu non piangere, faremo l'opera di restituzione. Ma per questo bastavano 100.000 lire, singhiozzavo io, avvilita e spaventata. Le altre 400.000 le daremo ai poveri, disse Prilukov. Sarà un'opera santa.